da quando è stata avanzata la proposta al governo Gentiloni e purtroppo accolta, noi ci stiamo mobilitando contro. Il governo di centrodestra che si è insediato purtroppo ha di nuovo peggiorato la proposta, tant'è che prevede di recuperare le richieste del Veneto del 2018 di devolvere ben 23 materie, tra cui anche la sanità, l'istruzione, l'ambiente, insomma tutto. Mentre con le battaglie che saranno fatte in questi anni si è riusciti almeno ad espungere da questo elenco, che comunque è dissennato per ciascuna delle 23 materie, almeno si era espunta la sanità e la scuola. Il disegno Calderoli invece lo ripropone pari pari. Il dramma più importante è che sembra che ci sia un punto di equilibrio sull'adozione dei LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni, che sono una materia complessissima e sono un'ipotesi ipocrita, perché comunque non serviranno a rendere l'Italia unita tra i vari suoi settori, in sostanza. Noi veniamo da una pandemia che ufficialmente, insomma, non è ancora finita, perché vediamo che ci sono ancora contagi, in cui è balzato agli occhi di tutti di quanto servisse una sanità uniforme su tutto il territorio. Questa lezione non è stata imparata? Ma non solo non è stata imparata, una lezione che comunque è ancora più cogente quando parliamo di malattie infettive diffusive, ovviamente. Tra l'altro anche le norme in vigore prevedono che le malattie diffusive vengano contrastate con un coordinamento forte centrale, ma soprattutto è una trappola, nel senso che oggi la sanità italiana in tutte le regioni è attanagliata da un drammatico sottofinanziamento, tant'è che le regioni hanno chiesto 4 miliardi al governo in più rispetto all'anno scorso per ripagarsi delle spese sostenute per affrontare Covid, e il governo gli ha messo solo a disposizione 2 miliardi, quindi cominciamo intanto il 2023 con 2 miliardi in meno e con un'inflazione del 10% in più. Ora, nessuna regione da sola, neanche il Veneto, è in grado di affrontare questa crisi della sanità pubblica, e quindi è una turlupinatura dire che i problemi della sanità si risolvono dando l'autonomia regionale differenziata. È veramente polvere negli occhi. Questo appunto è interessante, perché abbiamo visto anche la nostra regione, l'Emilia Romagna, ha ingaggiato questo braccio di ferro con il governo per avere, insomma, la quota parte delle spese Covid. Con l'autonomia differenziata non migliorerebbero le cose? Differenziata? Assolutamente no, intanto si fermano alla cosiddetta spesa storica, e poi la nostra regione ha il grande peccato originale di essere stata insieme con quella direzione leghista a chiedere l'autonomia regionale differenziata, compresa la sanità. Tra l'altro le richieste fatte dalla nostra regione con l'autonomia regionale differenziata prevedevano addirittura l'istituzione di mutue regionali ulteriori, quindi diciamo iniziative che servono a assicurare le prestazioni sanitarie, non la salute di sicuro, ai ricchi e di sicuro escludono i poveri che non possono farsi le polizze assicurative. Quindi diciamo adesso hanno finalmente scoperto che non hanno i soldi per rinnovare il personale, per rinnovare il turnover, diciamo per coprire il turnover del personale, hanno cominciato flebilmente a piangere, ma hanno enormi responsabilità degli ultimi 20 anni e devono assolutamente cambiare orientamento. Cioè l'Emilia Romagna ha bisogno di centinaia e centinaia di milioni di euro in più per rimettere in piedi un servizio sanitario pubblico. Se poi ci si vuole accontentare di smantellarlo e di dare alle assicurazioni private, al welfare aziendale, il mercato delle prestazioni sanitarie, si accomodi, noi gli faremo opposizione dura, ma insomma non possono turlupinare la gente dicendo che loro hanno la coscienza a posto perché chiedono un po' di soldi in più. Loro hanno una coscienza sporca e se la possono pulire solo richiedendo centinaia e centinaia e centinaia di milioni in più per potenziare il servizio sanitario pubblico. È ancora possibile tecnicamente, insomma, che la nostra regione torni indietro da questa richiesta di autonomia differenziata? Da un punto di vista istituzionale basta che ritiri la domanda che ha avanzato nel 2018, come noi gli abbiamo chiesto, raccogliendo noi Comitato contro ogni autonomia regionale differenziata, gli abbiamo chiesto di ritirare appunto la richiesta avanzata nel 2018. E poi c'è un'iniziativa politica, cioè bisogna che la si smetta di dire che esiste un'autonomia regionale differenziata buona e una cattiva. L'autonomia regionale differenziata è un elemento che non c'entra nulla col decentramento amministrativo. La parola autonomia deriva dal greco e vuol dire precisamente che ciascuno si fa le leggi per sé. Questa è la traduzione, diciamo, la volgarizzazione della parola autonomia, che cosa completamente diversa dal decentramento. Assolutamente favorevoli al decentramento previsto dalla Costituzione già nel 1948 e mai attuato, totalmente contrari a sostituire al Parlamento nazionale 21 parlamentini regionali o provinciali che si decidono da soli che leggi fare, una roba assolutamente incomprensibile.